voglio comunicare una cosa ai vostri radioascoltatori. Cruciani è molto amato dai gay. Ecco qua, beccate questa, Cruciani. La zanzara. Tutto il resto è noia. No, non ho detto gioia. Spariscono gli eroi, se la guerra poi adesso cominciamo a farla noi, non sorridere, gli spari sopra sono per noi. Lei contro Cabobo l'avrebbe usata la pistola? Immediatamente, dopo che avessi capito cosa stava facendo. Gli avrei sparato le gambe, sì certo, perché no? Perché basta sparargli le gambe e perché finisca di dare picconate in testa alla gente. E allora se non si ferma, gli spariamo un'altra volta le gambe. Se proprio non si ferma, gli spariamo addosso. Questa è la regola. Perché lei non l'avrebbe fatto, si sarebbe andato a nascondere da qualche parte, non sarebbe intervenuto. Guardi che c'è un obbligo di intervenire a difesa del... L'avvocato Piero Longo, avvocato di Berlusconi, deputato del PDL, si trasforma in una sorta di Longo Eastwood, di Longo Bronson, come Charles Bronson, vendicatore della notte, dice: io avrei sparato. La premessa è questa, io sono d'accordo con lui, regolare porto d'armi, regolare porto d'armi, vede il compiersi di una strage e cosa dice? Dice: io a un certo punto vedo quello che sta succedendo, sparo. Ma di che stiamo parlando? No, ma è come tutti, dire, tutti stupiti, tutti che si scandalizzano. No, vorrei dire che voglio usare proprio la parola inquietante, sperando che certo, l'onorevole Longo non si arrabbia e non quereli. Ha ragione lui al 150%. Anche il tono con cui l'ha detto, perché dice: sì, avrei sparato. Con la sua con la sua Luger, ascolta, la Luger che ha davanti. Senti. La pistola ce l'ha ancora? Sì, ce l'ho qui. Oggi porto una Ruger LCR fabbricata in America, sì. Ma veramente ce l'ha dietro? Ma come la porta? Come la porto? Certo che la porto. Me l'ho rinnovato il porto d'armi perché non devo portarla. Ma non ho capito, ma ce l'ha dietro? Adesso ce l'ha dietro? No, no, ce l'ho davanti gli occhi. Non ce l'ho dietro. In realtà non è una Luger, ma una Ruger, una Ruger, Ruger LCR fabbricata in America. Una cosa pazzesca, io conoscevo la Luger, non la Ruger. Ce l'ho qui davanti agli occhi, nel mio studio. Questa è la Zanzara, 800 24 00 24. L'altra polemica del giorno è l'intervista che il capo dei senatori del Partito Democratico, Zanda, ha concesso al quotidiano Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. In realtà Zanda ha ripetuto le cose che aveva già detto qualche tempo fa, cioè Berlusconi in un contesto diverso. Beh, in un momento politico diverso soprattutto. Appunto. Cioè dopo aver fatto l'accordo, cioè voglio ricordare a Zanda che il Partito Democratico e il PDL insieme a Scelta Civica hanno fatto un accordo in cui lui è al governo con Berlusconi, che lui reputa ineleggibile. Io devo dire che considero, ai sensi del nostro ordinamento, Berlusconi ineleggibile. L'ho detto più volte, l'ho dichiarato ed è una mia convinzione, io penso che, insomma, che ci sia un modo, debba esserci un modo sensato di interpretare le leggi. Quindi... e che non si possa dire che l'ineleggibile con Confalonieri invece è leggibile Berlusconi, cioè il proprietario è eleggibile e non è eleggibile soltanto l'amministratore delegato. Questo credo che sarebbe, interpretare in questo modo la norma sia non darle un senso. Beh, in realtà poi Zanda ha detto in questa intervista qualcosa di più pesante, c'è una sollevazione oggi nel PDL, ma secondo me la polemica finirà in un giorno, anche perché dal PD non è che ci sono voci unanimi su questo, non c'è unanimità sulla questione della legittimità di Berlusconi. Dice Zanda, questo è interessante, Lui senatore a vita, cioè Berlusconi, mai è stato nominato uno che ha condotto la vita che ha condotto lui, cioè un giudizio morale sulla vita che ha condotto, secondo Zanda, Berlusconi. Insomma, Berlusconi è andato troppo a donne. È andato troppo a donne, diciamola tutta. Zanda, dilla tutta. Non essere ipocrita. Dilla tutta. Berlusconi, secondo te, è andato troppo a donne? Ha creato un harem. Un harem. Capito? Beh, questo ci può stare. Beh, ci può stare. Secondo te ci può stare? Secondo me no. No, ci può stare il giudizio sull'opportunità di fare giudizio... la vita per questi meriti. Diversa è la questione dell'eleggibilità. Quella, secondo me, è una sciocchezza ritirarla fuori oggi. Pensa che per me. Pensa che per me. Paradossalmente è più credibile la prima cosa, anche se vent'anni dopo è ridicolo, che non la seconda. Rotondi, se Berlusconi in galera, non ci parliamo, stai neanche, zitto, stai zitto. Rotondi, se Berlusconi va in galera, ci becchiamo il 50% dei voti. Dobbiamo solo decidere se metterci lo Stato di diritto sotto i piedi, spedire in galera il nostro presidente Berlusconi e beccarci il 50% dei voti che ne consegue. Magari con tutta calma domani vado a trovarlo e gli dico: abbiamo fatto un ragionamento in trasmissione che conviene anche a noi mandarti in galera. Beh, magari Silvio si presta, torniamo tutti al governo. Se la guerra poi adesso cominciamo a farla. E infine, perché abbiamo già un ospite pronto, pronto a essere interrogato tra virgolette, ma togliamo anche le virgolette, Matteo Salvini, pasdaran sul caso Chienghe, il ministro dell'integrazione, che dice che il ministro è pericoloso e sta meglio in Congo. Ma pericoloso di grazia, perché? Per le sue idee? È pericoloso un ministro della Repubblica che mi viene a dire che l'immigrazione clandestina non sarà più un reato, perché arrivano tutti qua. Non è vero. Se questa continua a parlare così, arrivano tutti qua. E sabato e domenica, come Lega, saremo in mille piazze a raccogliere le firme contro questo ministro, che magari va bene in Congo, ma va meno bene in Italia. È con noi il deputato di Scelta Civica. Tutti lo chiamano il francescano della Camera, perché fa una vita piuttosto austera secondo alcuni canoni, perché porta sempre i sandali. Mario Sberna, buonasera. Buonasera a lei, Enzo. Come sta? Come sta, signor Sberna? Sì, abbastanza bene, costante, perché non è proprio così vero che non si fa niente a fare il parlamentare. E chi lo dice? Chi lo sostiene che non si fa niente? Basta. Ah, lei dice c'è una vulgata, no? La vulgata. Senta, ma secondo lei Berlusconi si comporta in maniera talmente abietta da non meritare di essere nominato senatore a vita? No, io giudicherei Berlusconi semplicemente per quello che non ha fatto in questi 20 anni, siccome non ha fatto molto a questo punto, vista anche l'età, e sarebbe bello che si godesse i nipotini, insomma, per cui si ritirasse, semplicemente si ritirasse, perché non ha fatto nulla e quel poco che ha fatto l'ha fatto male. Cioè si ritirasse da subito, lei dice? Sì, ma per godersi anche un po' la vita, no? Cosa sta lì a continuare a sollevare polemiche? Fa male all'Italia che stia lì? Ma fa male prima di tutto a se stesso, insomma, tutto quello che ha speso in questi anni per nulla, di processi, di avvocati. Di... quello continuerebbe a spenderli, non è che non li spende ormai. Ma no, facciamo una mettiamoci una pietra sopra su tutto, ma basta. Cioè, ma come? Lei dice... avanti, dopo 20 anni ancora così. Però dai. Lei è alleato di Berlusconi, onorevole Sberna. Io sono in Scelta Civica che ha fatto il governo insieme al PDL e al PD. Non è che il PDL è riducibile al solo Berlusconi, perché gli altri deputati e senatori penso si resterebbero male solo se... No, quello è vero, però insomma, alla fine ha fatto anche l'accordo con Berlusconi. Lei dice: io sono alleato col PDL, il cui capo assoluto è Berlusconi, però Berlusconi dovrebbe ritirarsi. È un po' una contraddizione, però, devo dirle. Sì, è una contraddizione, ma sa, ce ne sono state tante di contraddizioni in questi tempi. Questa sarebbe la contraddizione migliore, Berlusconi che si ritira. Scusi un attimo, ma onorevole Sberna, ma la vita privata di Berlusconi le fa orrore? Il tipo di vita che, almeno secondo quello che dice Zanda, no. Credo di no, è un affare privato che non è certamente da statista, insomma, no? Per cui, ma chi ha mai detto che Berlusconi è uno statista? È una persona come tante altre che ha nella lussuria, probabilmente, perché così dicono, ma poi io non ci sono mai stato, nella lussuria uno dei suoi così delle sue attenzioni, ma insomma, ecco, ma uno che ha la lussuria, lei ha usato un bel termine, no Parenzo, la lussuria. Bello. Un bellissimo termine, poi da, come dire, che evoca quasi un peccato, no, lei da cattolica. Peccato capitale. ma non posso giudicare nessuno, ma ci manca. No, però la lussuria, secondo lei, è meglio credere. No, non c'è dubbio. Non sappiamo neanche se è vero, perché lui ha dichiarato ai 420 che non è nemmeno, quindi la mia è semplicemente una trasposizione di quello che ho letto. No, però, che probabilmente non è nemmeno. Però Sberna, scusi un attimo, lei parla di una cosa, lei parla di una cosa molto precisa, al di là dei fatti concreti, cioè se Berlusconi è andato a letto con quello, con quell'altro, quanto, come, perché lei ha parlato di un modo di vita che assomiglia alla lussuria. Adesso, questa lussuria, secondo lei, è incompatibile con la figura di un politico? Sì, io penso proprio di sì, che soprattutto a livello di rappresentanza del paese intero, insomma, ecco, perché quel che uno fa a letto non può essere messo sulla piazza, sì. Ripeto, se fosse vero, perché poi nemmeno sappiamo se è vero, insomma, no? Perché chi c'era a quelle feste, tra l'altro sono feste con un sacco di gente, non credo che uno si metta a letto davanti a tanta però gente. Però il fatto che escano queste cose, che le donne parlino, eccetera, eccetera, secondo lei questo già di per sé è una cosa che... Mina chiaramente nelle fondamenta chiunque possa... Sì. Possa avere la pretesa dopo 20 anni, poi ancora di più, per la pretesa di essere considerato statista. Però il mio giudizio invece molto critico su Berlusconi sono proprio questi 20 anni. Sì. Cioè, questi 20 anni non ha ridotto i potenziali del nostro paese, non li ha aumentati. Invece in lui ci si aspettava una rivoluzione liberale che facesse crescere il paese, l'ha fatto calare. Questo c'è. Però io le ripeto che lei è. Sberna al governo in sostanza e con Berlusconi non con un'altra persona però magari sarà uno stato di necessità quello che vuole esatto. Cruciani, credo che anche lei che è un giornalista molto intelligente sa che non avevamo alternativa. O tornavamo a votare con questa legge elettorale che ci avrebbe riconsegnato il medesimo risultato, oppure si provava, come Scelta Civica ha voluto fare, a fare un governo di, chiamiamolo, salvezza nazionale. Però scusi un attimo, Sberna, secondo lei lei sarebbe contento se fosse condannato Berlusconi? Ma no. Cioè sarebbe un motivo per levarselo dalle scatole, secondo il suo ragionamento? Ma io preferirei sinceramente che lo capisse lui di togliersi dalle scatole, nel senso che ha già dato, insomma, quel che poteva fare l'ha fatto. L'ha fatto male purtroppo per lui e purtroppo per noi. Adesso a questo punto poi ho preso atto di questi 20 anni, delle sciocchezze di Tremonti, di questo, che si ritira in santa pace a godersi tutta questa bella vita, ma soprattutto godersi i nipotini, no? Che l'essere nonni è una delle cose più belle che può capitare nella vita, e mi auguro che capiterà anche a me. Se lo goda quello, no? Allora, io ho notato una cosa, caro Parenzo, lo sai che cosa ho notato? Notato che allora, da tempo, dall'inizio della legislatura, Mario Sberna, che è nostro ospite, deputato di Scelta Civica, persona molto tosta, persona che insomma dà i soldi in beneficenza, è inutile tornare su queste cose, ha scelto di vivere con 2.500 euro di stipendio, vero Sberna? Sì, anche se non l'ho scelto perché parlamentare, l'ho scelto perché quello era il mio lavoro, cioè per il mio lavoro prendevo quella cifra lì. E lei ha deciso di mantenere quello. Il resto che ci fa? Il resto lo do all'incremento del prodotto interno lordo immediato, senza parlare di fondi o di cose fantasmagoriche, perché appena lei dà 500 euro a qualcuno che ne ha bisogno, li spende immediatamente. Per cui questa solidarietà tra chi ma come li dà fisicamente, materialmente, li dà a qualcuno per spenderli subito per strada? Sì, no, a qualche associazione li darà? No, penso sì, a qualche associazione, ma anche a parecchie famiglie che so che hanno assolutamente bisogno di pagare la bolletta arretrata se non gli tagliano i fili, o di pagare la rata dell'affitto perché se no li cacciano fuori di casa, o anche più semplicemente per comprare qualcosa al supermercato, insomma. Ma lei ha 5 figli, 2 adottati, una moglie che penso che guadagni qualcosa, come fa a mantenere con 2.500 euro tutto stambaradam? No, ma guardi Cruciani, bisognerebbe chiedersi come fa a sopravvivere con lo stipendio da fame che abbiamo ultimi in Europa, la maggior parte delle famiglie in questo paese, degli operai con 1.000-1.200 euro. No, d'accordo, però lei ha 5 figli. Ho capito, però allora Francesco, adesso parliamoci chiaro, così siamo trasparenti del tutto, a me non piacciono le venerazioni. Francesco sta lavorando, Francesco, il mio primogenito, lavora, prende 970 euro e 400 li dà in casa anche lui, come tutti i bravi figlioli. E Daniele ha iniziato proprio lunedì, dopo 11 mesi di disoccupazione, a lavorare anche lui e quindi porterà a casa anche soltanto. Restano tre. Sì, ho capito, ma insomma guarda che sono tanti soldi, cioè mia moglie fa l'operatrice socioassistenziale, prende 800 euro. Ma lei lo sa che 2.500 euro sono esattamente lo stipendio che Berlusconi dà a una quarantina di ragazze dette olgettine? Lei lo sapeva, l'ha letta questa cosa. Sì, 2500 euro sono esattamente lo stipendio che Berlusconi dà a una quarantina di ragazze, ha detto Olgettini. Ieri l'avvocato Longo, l'avvocato di Berlusconi, ha detto che per Berlusconi 2500 sono, euro sono, come che ha detto Parenzo, un euro, 10 euro. 12 euro. 12 euro. Che io l'ascolto, è cruciale. No, ma lo so, Sberna. Allora, mi dica che effetto le fa il fatto che 2500 euro di Berlusconi vengono date alle Olgettini mentre il suo stipendio con cui mantiene la famiglia, eccetera. Sì, le fa schifo, le fa un po' schifo questa cosa o no? Ma no, schifo è una brutta parola, però certamente non, no, c'è veramente molta più gente che ha molto più bisogno. Insomma, io le cosiddette Olgettine bastava guardarle in televisione e si capisce che insomma questi soldi sono un po' sprecati, anzi un po' tanto sprecati, e gridano un po' anche vendetta, mi scusi il termine, un po' forte nei confronti proprio di tutta la gente che avrebbe veramente bisogno. Cioè, se uno deve fare beneficenza, la faccia almeno bene, che ci sta proprio nella parola intrinseca. Cioè, grida vendetta il fatto che Berlusconi mantenga una quarantina di ragazze per 2500 euro? No, grida vendetta nei confronti di coloro che non ricevono niente, sì, di quei 2500 sì. euro. Sono questi che devono gridare vendetta, che gridano vendetta. No, d'accordo, vendetta, però grida vendetta. Ma in senso cattivo, ovviamente, cioè in senso buono, non no, volevo utilizzare no, quello no, linguaggio capito. Lì. Sono in stazione, sono un po' stanco e mi vengono delle parole che non vorrei dire. Ma però meno male sì. che le vengono parole che non vuole dire, Sberna. Se mi conosce, meno male che vengono parole che... Sì. Altrimenti tutto... altrimenti che facciamo? Tutto cioè, finito. Tutto finito. Scusi, ma io non ho capito, lei usa i sandali anche d'inverno? Sì, Parenzo, perché a parte guardi che a Roma, ma lei lo sa, guardi che a Roma sì, cioè, c'è un clima che è molto migliore rispetto a quello di Brescia, quindi non è così faticoso portare i sandali. Comunque quando i sandali sono chiusi non soffre così tanto il freddo, mi credo. Poi devo anche dire che ho sempre vissuto in ambienti riscaldati, per cui il freddo lo si sente per strada, e qui ci sono, qui a Roma per esempio, centinaia di persone che dormono per strada e anche questo forse grida un po' vendetta. Ma lei ci è andato qualche volta a trovare le persone che stanno per strada a Roma? Ma io ci passo la sera per tornare a casa dalle suore, con qualcuno mi fermo anche a fare due parole, però qualche soldo a quelli che dormono alla stazione Termini l'ha dato qualche volta? Sì, certo, ci mancherebbe altro. Ci mancherebbe cioè altro. I barboni della stazione? Parte, una parte dello stipendio lo traduco in monete da 2 euro. Ah, così? Proprio per cercare. Cioè lei si porta dietro? Almeno di un caffè. Sì, nella tasca proprio. Si porta un po' di monete da 2 euro per darle in giro? Esatto. Per darle a questi qui, sì, poverini, vabbè, non hanno niente, hanno fame, ma vanno a guardare, ma scusi, magari non c'è da piangere, sì. Io sono qui nel negozietto, nel supermercato, vanno a guardare dentro se qualcuno ha buttato via qualche cosa, e ieri ero lì, adesso non posso fare il nome perché è pubblicità, ma ad un self-service qui in stazione c'era un signore che passava nei piatti dove la gente ha mangiato a sboconcellare. Scusi, non gli dà 2 euro lei se lo vede così. Anzi, 2 euro sono stato un po' vergognoso a dargli soldi. Io avrei dovuto invitarlo a pranzo, ma sul serio, però non ho avuto la prontezza. Io purtroppo sono affetto da un cinismo, dovrei venire a lezione da lei. Scusi, Sberna. Sì. No, vale la pena. Bene. Lo so che mi farebbe bene. Onorevole no, Sberna, perché questi sono begli esempi, è bella Italia questa. Sberna, scusi un attimo. Sberna è la bella Italia. Vabbè, basta di fare questi salamelecchi, non li vuole nemmeno Sberna. Non vuole nessuna venerazione. Gli ho fatto una domanda e mi ha risposto sì, 2 euro, che era interessante. Sberna, scusi un attimo, ma Cabobo lei è da perdonare? Ghanese. Se è malato, come diceva, come intuiva forse il mio collega Gigli, che è uno sì. specialista, insomma, un neurologo. Sì. Se ha una malattia, credo che sia dovere nostro come società proprio intervenire e occuparcene, impedire che ricommetta un reato del genere. Cioè, lo rimanderebbe indietro in Ghana? No, guardi, io su questo discordo completamente con lei, anche perché non risolve il problema, lo sposta solo Cruciani. A rimandarlo in Ghana non risolve nessun problema. Il problema, cioè, dobbiamo risolvere noi il problema di quest'uomo, dice lei. Beh, sta qui con noi, ce lo siamo trovati sul nostro cammino e non possiamo fingere. Lei se la ricorda qual è il buon samaritano? Ma lei lo perdona per quello che ha fatto? No, perché adesso il gran samaritano magari non ho tempo, sarebbe interessante. Ma come potrei io dare il mio perdono, che non sono stato nemmeno colpito direttamente negli affetti più cari, e mi chiedo come potrebbero darlo il loro perdono in un momento così così recente di una tragedia così immane, i parenti delle vittime. È chiaro che non si può pretendere. Ma secondo lei ha colpito perché disperato? Disperato per la vita che fa? No, secondo me ha ragione Gigli, ha colpito perché è fuori di testa ed è fuori di testa perché. E dobbiamo curare noi questa malattia. Ce ne dobbiamo occupare. Credo che ce ne dobbiamo occupare, sì. Grazie, sì, sì. Sberna, grazie. Mi venga a trovare un'altra volta. Un abbraccio, a presto. Grazie a lei, anche a Parenzo, arrivederci. Ma perché non smettete di urlare? Sembrate presi. Oh, vi state montando la testa, datevi una calmata. Salice, salice, non stare lì così, mettiti comoda, comoda, sull'erba molto spesso e così corica, corica, non voglio farti fretta ma troppo inizia la festa. La pistola ce l'ha ancora? Sì, ce l'ho qui, oggi porto una Ruger LCR, fabbricata in America, sì. Ma veramente ce l'ha dietro? Ma come la porta? Come la porto? Certo che la porto, me l'ho rinnovato il porto d'armi perché non devo portarla. Ma non ho capito, ma ce l'ha dietro? Adesso ce l'ha dietro? No, ce l'ho davanti agli occhi. Davanti agli occhi? Dietro. Ma dove si trova lei? A Padova? Ma anche alla camera la porta lei. No, alla camera no, alla camera non si può. Non ah, si dai, Parenzo, gli ho già detto che non si può portare la pistola neanche in treno. In aula di tribunale? No, non si può, ma neanche in treno non si può. No. E neanche in una balera non si può, neanche al cinema si può portare a una. Non si può portare l'arma, anche se si ha il porto d'armi, dove c'è concorso di persone. Lei contro Cabobo l'avrebbe usata la pistola? Contro quel ghanese che ha preso a picconate tre persone. Se immediatamente, dopo che avessi capito cosa stava facendo. Cioè, gli avrebbe sparato? Gli avrei sparato le gambe, sì, certo, perché no? No, e che ne so, boh, è una domanda. Perché lei non l'avrebbe fatto, si sarebbe andato a nascondere. No, ma anch'io, io guardi... Ma guardi, cioè, guardi non, perché c'è un obbligo di intervenire. Ma perché ha le gambe? Scusi, perché ha le gambe? Mi spieghi? Perché basta sparargli le gambe e perché finisca di dare picconate in testa alla gente? Beh, magari non si ferma e bisogna. Allora, se non si ferma. Per essere più sicuri, per essere più sicuri. Spariamo un'altra volta le gambe. Se proprio non si ferma, gli spariamo addosso. Cioè, lei non se la sarebbe fatto sotto. Non se la sarebbe fatto sotto a vedere questo qua e avrebbe avuto la freddezza, secondo lei, di tirare fuori la pistola e sparare? Ma scusi, ma lei con chi so? Di stare parlando con, non so, con Parenzo? Beh, siccome Berlusconi ha appena annunciato, anzi Verdini l'ha detto, che Berlusconi rinuncia alle manifestazioni di piazza tranne quella a sostegno di Alemanno perché scosso dalle violenze di Brescia, forse potrebbe chiedere aiuto e sostegno al suo avvocato Longo, non solo nell'aula tribunale, anche per fargli magari da scorta, no Parenzo? Fargli certo, da scorta. Ma non ti stupisce? Cosa? Se tu ridi, tu sorridi, eccetera. Ma che mi stupisce? È normale, uno è il porto d'armi, il tono non mi stupisce. Ora, no, l'avvocato Longo è una persona gelido con cui ma è una persona fredda, fa l'avvocato, non è che fa il buffone come noi. Ma con chi crede di parlare? Ma con certo, ma Longo, è così. Non con Parenzo. Assolutamente sì, è così, uno che ha il porto d'armi. Scusate, statemi a sentire bene. Voi avete il porto d'armi, sapete usare un'arma, vedete uno che prende a picconate la gente per strada, che fai? Te la tieni in saccoccia l'arma, spari, no? La polizia che deve intervenire. A me questi ma che vuoi dire? Ma dai, su, non diciamo cose ipocrite. Il monopolio della ho capito, forza, ma se uno ha il porto ora è interessante capire, invece è interessante capire cosa sarebbe accaduto davvero se avesse sparato sul serio Longo, cioè se si fosse trovato in quella situazione, cioè se avesse sparato alle gambe o magari ucciso il ghanese Cabobo. Cosa sarebbe accaduto a Longo? Lo avrebbero messo sotto inchiesta? No, intanto becchiamoci i titoli del TG3. Quello certo. E che ne sai? Titoli del TG3. Quello certo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Ancora tensioni nella maggioranza sulla giustizia. Letta, vado avanti, non mi faccio distrarre. Le intercettazioni non sono nel programma. La polemica sul reato di vilipendio al capo dello Stato. Il Quirinale dal Colle nessuna pressione, spetta eventualmente al Parlamento modificare la legge. Le regioni contro il patto di stabilità. Vendola è una condanna a morte. Giovannini, pochi soldi per la cassa integrazione, ci vuole una riforma. Rispunta l'ipotesi del trasferimento del quartier generale della Fiat negli Stati Uniti. Il Lingotto, per ora nessuna decisione, non è all'ordine del giorno. La precarietà produce effetti funesti, dice il Papa. Aiuti concreti ai poveri, lotta alla corruzione e all'evasione fiscale, no ai cristiani da salotto. Si allarga l'inchiesta sul Monte dei Paschi di Siena. Nuovi indagati per truffa aggravata e riciclaggio. Perquisizioni in diverse città italiane e anche in Svizzera. E dopo essere stato minacciato di licenziamento, uccide in un bar a Milano il datore di lavoro e il figlio e ai carabinieri confessa: non li sopportavo più. Zanzara! C'è una zanzara tigre. E beh, è successo anche a me, caro Parenzo, è successo anche a me di essere pizzicato al telefono per uno scherzo. Pizzicato al telefono per uno scherzo. Era inevitabile prima o poi. Ero un po' distratto stamattina, ero al telefono così, ho detto mi chiama uno e non è che posso pensare che sia ciao belli, cioè pensavo vabbè, questo qua è un pazzo che ha avuto il mio numero di telefono. Purtroppo il mio numero di telefono circola anche per mia imprudenza, per carità, però è accaduto questo, sentite. Sì, è il dottor Cruciani? Sì. Sono finalmente, sono Giambattista De Montis. E chi sei? Giambattista De Montis, da Foggi, provincia di Cagliari. E che cazzo, finalmente ce l'ho fatta entrare in contatto con lei. Ma chi sei, un ascoltatore? Chi sono sei? Un ascoltatore della Zanzara, sono io. Mi faccia sentire la sua voce per capire se è lei davvero. È Cruciani, è quello vero. Ma chi sono io, ma come ha fatto ad arrivare a questo numero? Al giorno d'oggi è più facile parlare con Putin che con lei. Che cazzo, in redazione non c'è mai. Ma che vuole, su? Che a vuole? Questo punto mi sorge un dubbio che lei sia uno sciupadonne, perché sui giornali ho letto che cambia fidanzata come i calzini. Ma saranno affari miei quello che faccio? La cronaca vera, la danno fidanzato con Moira Orfei, le leggo il titolo: Moira Orfei lascia gli elefanti per domare la zanzarona di Cruciani. Ma dove ha letto sta cazzata? Cronaca vera, non lo so, già mi piace che mi dice dove ha letto sta cazzata, sto già godendo. Lei, io la devo ringraziare. Ma perché, io non capisco, ma chi le ha dato sto numero di telefono? Cioè, non è che posso ricevere telefonate da un pazzo che mi dice che sono cinque femmine, eccetera. Lei non si preoccupi, ancora le chiedo 50 secondi della sua attenzione. Io la devo ringraziare, dottor Cruciani, perché il suo programma mi dà gioia. A me sentire litigare la gente mi svolta la giornata. Si masturba anche un po', si masturba anche un po' dopo, si tocca anche un po', gode. Abbastanza, godo abbastanza. Prima di salutarla, devo coronare il sogno della mia vita, cioè? Quello di essere mandato a fare in culo da lei. No, io me lo registro sul cellulare. Fatelo in privato. Facciamo così, io parto, faccio finta di telefonarle alla radio e le dico, facciamo finta così. Pronto, dottor Cruciani, lei è un comunista! Ma vada a fare in culo! Ma che mondo è questo? Ma che mondo! Vabbè, ciao belli! Ma avete fregato! È tutto finito! È tutto finito, mi hanno fregato! Bravi, bravi comunque! Indovina chi era quello che faceva il barese? No, non lo so. Ma non sai nulla, non sai. Vabbè, lasciamo cadere la cosa. No, chi era? Per chi non lo sa, lasciamo cadere la cosa. Nicolino da Campo. No, chi c'è prima? Mario da Ferrara, buonasera. Mario. Buonasera. Complimenti per la trasmissione e anche per tenerti Parenzo e non Pastronzio, chiamiamolo col suo nome. Prima volevo dire una cosa a proposito del fatto dell'avvocato Longo con la pistola. Non ne sono sicuro, lo dico, Sì. Ma io credo che ogni cittadino in flagranza di un reato, teoricamente, abbia l'obbligo di intervenire e in quella dipende come intervieni, ovviamente. Sì, come un poliziotto, perché in quella circostanza... Però non addentriamoci in queste cose giuridiche. Riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Comunque, io avrei fatto la stessa cosa. Anch'io gli avrei sparato nei piedi, ma gli avrei sparato. Sì, certo, magari è difficile, prima un colpo in aria. È difficile. Magari prima un colpo in aria, ma il secondo nei piedi, senza dubbio. Ma qual è il problema, Parenzo? Che cos'è che ti dà fastidio? Parenzo, dà fastidio l'ordine. Qualcuno a un certo punto si incazza perché vede quello che spacca la testa con l'accetta e interviene. Ma lasciamo ammazzare la gente per strada così, liberamente. Lasciamoli ammazzare. Ma che parli? Ma chi dice l'obbligo di chiamare la polizia? Ognuno deve fare il proprio mestiere. Sì, intanto quello ammazza 5 persone, intanto chiama la polizia. Sì, certo, l'obbligo di polizia. Intanto il reato omissione di... Allora, ti informo una cosa. Quando tu vedi un fatto di questo tipo, c'è un reato che si chiama omissione di soccorso, che è un reato reato previsto dal codice. Vabbè, ma tu sei pazzo, cui... questo qua stava spaccando la, la testa alla gente con allora, l'accetta. La ma di cosa stai parlando? Allora, tu stai chiami la polizia. La ricetta che tutti quelli che hanno le armi in tasca vanno e hanno il porto in giro a sparare. No, io non ho detto questo. Se uno è lì, si trova lì con la pistola, con regolare porto d'armi, non un bandito, come ha detto l'avvocato Longo, ha tutto il diritto, forse anche l'obbligo, di tirare fuori la pistola e sparare a questo signore. Non chiamare la polizia che ci mette mezz'ora o 10 minuti e quello ha già ammazzato 20 persone. Ma di che parliamo? Dai, Pino da Torino, no? Chi c'era? Doveva finire Mario. Mario, allora... La telefonata che volevo fare è per le dichiarazioni scriteriate di questo senatore comunista Zanda. Beh, comunista ancora, del Partito Democratico. Hanno ancora questa ossessione di Berlusconi. Io per la sono stato iscritto al Partito Comunista e per la prima volta ho sentito parlare di lista bloccata alle elezioni della sezione. Non hanno il senso della democrazia, non sanno cosa sia. Stanno mettendo a rischio un governo. Vabbè, perché non mettono a rischio nulla, perché è una frase di Zanda, il Partito Democratico non lo segue su questo, a meno credo, a livello ufficiale. Poi sa, l'ineleggibilità di Berlusconi, qualcuno deve avere il coraggio di portarla al Senato questa roba qui e di farla votare. Io non credo che il Partito Democratico farà questo tipo di mossa, comunque vedremo. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte, perché affonda il petto su di me. Ai ai, mi ha beccato, ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo via, ma lei gira sempre intorno a me. E balli su twist, e balli su twist, la zanzara twist. Io devo dire che considero, ai sensi del nostro ordinamento, Berlusconi ineleggibile. L'ho detto più volte, l'ho dichiarato, ed è una mia convinzione. La convinzione, io penso che, insomma, che ci sia un modo, debba esserci un modo sensato di interpretare le leggi. Ingroia, subito in ferie, come sapete, pizzicato da Valerio Staffelli con il tapiro. Sentite. Siamo venuti a portarle questo tapiro con la fontina, questo tira e molla, abbiamo visto, vado, non vado, vado, non vado, questo è per lei, tenga, finalmente è arrivato, si è insediato il suo primo tapiro. Ma no, è per lei, scusi, finalmente si è insediato, allora come mai questo tira e molla? Adesso è qua, ormai ha preso lavoro, E come avevo detto, avrei atteso la decisione del TAR. Ma perché non voleva venire qua? Ancora Ingroia, è bella, no? Assolutamente, bella, infatti come luogo di villeggiatura bellissimo, e anche per lavorare, e anche certamente per i colleghi. Siamo qui, la Zanzara, 800 24 00 24. Mario da Pescara, buonasera Mario, vada. Buonasera Cruciani. Pronto, allora, mi sente? Sì, dica. Sì, buonasera. Io innanzitutto le devo chiedere scusa perché ho chiamato circa mezz'ora fa e ho chiesto alla centralinista il permesso di dirle che è patetico, però non glielo voglio dire. No, ma me lo può anche dire che sono patetico? No, perché non me lo vuole dire più? No, scusi. No, non glielo vuole perché non è giusto. No, me lo dica, me lo dica. No, no, no, io un'altra io ho una curiosità. Allora, le spiego. Me lo dica, la prego. Io ho una curiosità. Io per mestiere seguo gli eventi, musica, sì, spettacoli, danni. Vabbè, però a me piace molto più seguire il backstage, che l'evento mi ammoscia, non mi piace. Mi piace molto più il dietro le quinte. Sì. Ho una curiosità e lei me la deve assolutamente soddisfare. Sì. Io vorrei sapere alle 2, alle 3 del pomeriggio, quando vi sentite, vi riunite, come vi mettete d'accordo, come ma funziona? Con chi? Ma con no, chi? Il programma, come funziona? Cioè, come che domande sono? Scusi, come Mario, vi mettete d'accordo con Parenzo? Com'è? Ma oggi, non ci mettiamo d'accordo, l'ho sentito diciamo una volta cosa, oggi. Facciamo incazzare quello. No, Mario, allora le dico, è da ormai un mese praticamente che io e Parenzo ci sentiamo pochissimo. Allora, stamattina mi ha chiamato Parenzo. Puoi confermare questa cosa? Mi ha chiamato dicendo sì, da oggi in poi voglio chiamarti ogni giorno alle 10:30. Però mi dica la verità. Dopodiché di tutto abbiamo parlato, le assicuro, tranne che della trasmissione. Però mi dica la verità, lei ascolta, adesso vabbè devo citare una radio concorrente, ma no, però vada, è la RAI, ma dica, è la RAI. Ma dica quello che vuole. Sei 1-0 con il Greg e Lillo, no? Ma sì, Marco, io conosco tutte le trasmissioni della radio, della radiofonia italiana, perfetto, e mondiale. Allora lei li sente quando loro in studio, no? Cioè fanno finta che si collegano con l'inviato e sta lì a fianco con la cuffia e vabbè, c'è il tecnico del suono. Non c'è finta di niente, è un mondo che lei adesso sentirà live, ad esempio, il giovane Parenzo che fa la spesa a un supermercato davanti a casa, ma non c'è nulla di improvvisato, è tutto live, è tutto meravigliosamente. Ma io non so nulla, perché se avessi saputo prima che lui andava a fare la spesa come al solito fuori, l'avrei preso a calci nel culo, ha capito Mario? Appunto, a calci capito. Nel sedere, per essere un ho po' capito, più soft, capito, perché altrimenti ci accusano di utilizzare troppe parolacce. Grazie, capito, grazie Mario. Sì. Filippo da Modena, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Innanzitutto non da Modena, ma da Nova Milanese, provincia di Milano. E chi se ne frega? Allora, poi? Di sì. E chi se ne frega? Grazie e vado a quel paese. Allora, Filippo, su, andiamo. Vabbè, Pino dalla provincia di Torino. Oh, caro Cruciani. Sì. Mi hai fatto attendere un'ora al telefono, certo che di pazienza bisogna averne, e i notav l'hanno imparata la pazienza nel corso di 23 anni. Sì, io voglio dare un abbraccio fortissimo a un senatore del Partito Democratico che si chiama Esposito, il quale viene continuamente minacciato. No, minacciato no. Ma come no? Viene minacciato. E comunque voglio dare un abbraccio fortissimo anche a tutti quei lavoratori del cantiere notav, sono i miei fratelli, i lavoratori del cantiere notav che vengono massacrati ogni giorno, che vengono chiamati crumiri, come no? Che non riescono nemmeno a campare bene loro e i figli. No, senti una cosa, io faccio lo scultore. Ho creato il laboratorio artistico di Venhausen, presso il presidio di Venhausen, come artista, mi sono avvicinato al movimento, perché ne ho sentite tantissime nel corso del tempo. E ho detto vado a vedere personalmente che cosa succede. Ma lasci perdere, ma è vero o no come raccontano questi quagli operai che sono minacciati, li chiamano crumiri, sì o no? Voi dovreste vedere innanzitutto che possono anche chiamarlo. Il problema è uno solo. Il problema è uno solo. C'è un cantiere che è stato votato, l'hanno deciso diversi governi e ci sono un manipolo di delinquenti che usano strumentalmente la questione del notab. Non dico i manifestanti, quelli che sono pacificamente contro il treno veloce, che usano per attaccare la polizia, le istituzioni, eccetera, eccetera. Parenzo. No, dico a quest'ora, lui sempre chiama a quest'ora, a quest'ora. Qualche minuto, gli abbiamo strappato qualche minuto, ma oggi dovevamo per forza. Presidente? Caro Cruciani, caro Parenzo, il mio saluto e il mio augurio. Presidente. Seguendo l'emissione di questa sera, sì? Particolarmente frizzante. L'emissione. Ma lei ha qualche pistola al Quirinale come l'avvocato di Berlusconi? Non credo che lei abbia il porto d'armi, Presidente, sarebbe uno scoop pazzesco. Ma io mi affido alla vigile costante attenzione del corpo dei corazzieri, certo. Scelti uno per uno, certo. In grado, diciamo, di proteggere da picconatori vari, presenti o passati. Non c'è dubbio. Allora, dunque, lei non ha pistole al Quirinale, ma si affida totalmente ai corazzieri. Questo è importante saperlo, no Parenzo? Perché per carità, pure il Presidente della Repubblica con la pistola in mano. Poi magari gli trema un po' la mano, perché non perché abbia il ricordo. Beh, che fai? Insinui che sia un po' anziano? No, scusa. Dico magari che attenzione Parenzo, che lei conosce, è ancora esistente il reato di vilipendio. Ah, ecco. No, ma io non ho detto nulla. Proprio lì volevo andare a parare, Presidente. Scusi, ma questi grillini che la insultano, lei ha detto che il reato esiste ancora, che tocca al Parlamento decidere se abolirlo o no, ma intanto ha detto esiste ancora. Esiste. Lo userà? Esiste nel frattempo, financo, quando il Parlamento dovesse, diciamo così, modificare l'attuale dettato legislativo, fino ad ora cortesemente se li portino via. Cioè, se li portino via chi ha questi grillini, questi qua che la insultano, dice lei, no? Sono ancora il Presidente della Repubblica Italiana. È giusto, certo. Forte di un mandato che mi è stato oltretutto richiesto costituzionalmente dai partiti presenti nel Parlamento, con sacrificio e spirito di servizio lo sappiamo, sì. Dedicato, e quindi cortesemente si stessero zitti. Ma guarda, Parenzo, che non è che c'è molto da replicare a questa cosa del presidente Napolitano, devo dire. Senta, le strappo ancora 30 secondi, presidente, perché qui c'è c'è la questione di Berlusconi senatore a vita. Lei quando sarà diventerà anche lei senatore a vita. Ecco, secondo lei ha i requisiti il dottore Berlusconi? Io non voglio entrare nel merito del giudizio personale, essendo il signor Silvio Berlusconi, l'onorevole Berlusconi, un personaggio che ha tanto fatto nel nostro paese dal punto di vista imprenditoriale e quant'altro. Devo dire che si trova in questo momento, come ha avuto modo di dire ai suoi colleghi del Messaggero, che hanno sapientemente espresso il mio pensiero e tradotto mediaticamente, certo. Devo dire che si trova un poco impigliato in situazioni e questioni giudiziarie che lasciano qualche dubbio e un po' di amaro in bocca. Lei sembra aver dato un consiglio a Berlusconi per concludere, è meglio non avere reazioni scomposte anche dal punto di vista processuale, vero presidente? Beh, assolutamente, confermo. Vuol dire che con una piccola parafrasi è come quando ti ferma il vigile urbano e ti riscende con un atteggiamento sommesso e non con quell'aria di chi dice lei mi sta facendo perdere il mio tempo e non col crick, insomma, no, e non né con il crick né con la pistola fumante. Va bene presidente, grazie. Che si mangia stasera lì da quelle parti? Questa sera abbiamo trovato dal mio pescivendolo di fiducia abbiamo trovato un'ombrina che faremo, ritengo, all'acqua pazza. Poi basta. Sempre pesce mangia lui. Sempre pesce, sì. Beh, il pesce alla mia età è un poco più leggero. Non c'è dubbio. Devo dire che qualche volta anche una bella scaloppina alla pizzaiola non ce la toglie nessuno. Presidente, dopo un piccolo dolce abbiamo fatto il babà, Clione e Golosa. Grazie presidente, a presto. Grazie a voi. Un abbraccio. Viva l'Italia, viva la Repubblica. Beh, ci regala sempre grandi perle, grandi perle. A me piace quando chiude sempre dicendo viva l'Italia, la Repubblica, e parla di emissione radiofonica. L'emissione radiofonica, sì, l'emissione. No. Fabio da Modena, buonasera. Buonasera Bruciani. Prima cosa, Pastronzio è una meraviglia di soprannome. Pastronzio, tagliamolo subito questo Pastronzio, ce l'abbiamo questo Pastronzio, lo mandiamo in onda dopo, Pastronzio. Sì, devo dire la verità, io ogni tanto si difende bene da solo, però devo difendere Parenzo da queste aggressioni pazzesche che subisce. Ma era in maniera simpaticissima, a parte che uno può discutere con voi, ma è meraviglioso sentire le vostre discussioni. Vabbè, detto poi, quello, voi Cabobo? Sì, Cabobo. C'è da copparlo. C'è da copparlo, bene. Cioè lei ha detto una cosa così divertente, no, nei nostri confronti, così Pastronzio, poi la seconda cosa Parenzo che ha detto, quel Cabobo c'è da copparlo. Ma che vuol concretamente che vuol dire? Lei lo copperebbe anche adesso? Ha tolto il diritto alla vita tra innocenti. Sì, d'accordo, però la pena di morte e la vendetta si tende a eliminare. Non è una vendetta. Sì, però oggi però diciamola tutta, Fabio. Lei lo ammazzerebbe subito oggi. Pena di morte e via, giusto? Non credo che però abbia diritto a troppe difese una persona del genere. Beh, troppe difese. Anche perché se rischiamo di mandarlo in galera, tra qualche anno esce e poi cosa fa? Ne riammazza qualcun altro perché tanto sta in galera a mangiare dormire a spese nostre. Fabio, devo ammettere che la sua idea è largamente diffusa, anche se molti non hanno il coraggio di esprimerla, e però io non sono d'accordo. Lores da Vicenza, buonasera. Parenzo, è così, regoliamoci, è così, questa è la situazione. Siamo solo. Sì, non è che dobbiamo per forza assecondare chi la seconda? Io non sto secondando, sto ricevendo. Lores da Vicenza, ricevere. Lores, dica. Sì, posso? Prego. Allora, vorrei fare vedere un film a Parenzo, posso? Sì. Allora, c'è sua figlia di Parenzo in strada, più grandicella di adesso. Sì. Poi c'è quel coglione là di nero. Sì, coglione di nero. E poi c'è un'altra persona che Parenzo sa che ha la pistola, vede il nero che sta picconando il cervello di sua figlia, però il coglione tira fuori il telefonino per chiamare i carabinieri. Cioè il coglione chi sarebbe? Scusi, perché ci sono due coglioni qua, il coglione nero e Allora, facciamo i personaggi, primi, sì. in primis è il comunista Parenzo. Sì. Poi che è coglione, sta è coglione. Lui sta, è comunista coglione. Comunista coglione Parenzo, benissimo. Esatto. Poi allora c'è la figlia, c'è la figlia di Parenzo in strada. Cogliona pure lei, no? Ma adesso c'è la figlia, no. No, però figlia di coglione, però figlia la pregherei di evitare di avere immagini violente rispetto la figlia di un coglione comunista. Non c'è bisogno che intervieni, Parenzo, intervengo io. La figlia di un coglione comunista. Poi? Esatto. Poi? E c'è questo personaggio, Cabobo. Sì, come lo definisce? Con in mano. Sì, come lo definisce questo Cabobo? Non mi interessa, è indefinibile, non mi interessa. Indefinibile. Per me deve essere ucciso, stop. Deve essere ucciso. E poi c'è uno che Parenzo sa che questo ha la pistola, il porto d'armi, ma questo coglione come Parenzo tira fuori il telefono, chiama la polizia, non spara le gambe. E così il cervello di sua figlia va a farsi fottere, va bene? Ce va in mille pezzi, dice lei, in mille pezzi. Ce l'hai in mente adesso il film Parenzo cioè io non so dove questa poveretta questa voce anche povero così apparente. Dice tua madre deficiente d'un coglione questa, povera questa, è tua madre che stia, ti ha al mondo. Stia tranquilla Lores. Povera deficiente tua madre coglione voce, che è una povera che disgraziata che ti ha messo al mondo. No, fermi tutti Lores, di che cosa stiamo parlando? Lei sta dicendo la povera disgraziata che ha messo al mondo, ma non si permetta, ma di che parliamo? Perché ha detto questa frase? Perché ha pronunciato questa frase? Ma mi scusi tanto, che una che ha messo al mondo un deficiente così si sarà ancora maledendo, secondo me. Ma perché insiste? Allora, questa poveretta con questa voce apparentemente mansueta, ma che dice delle cose terribili, fosse vissuta nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Pensa ai ragazzi che ha ucciso quello deficiente. Lei è una povera squilibrata, si capisce da quello che dice che lei fa dei paragoni da povera squilibrata. Deficiente, siccome è una povera squilibrata ha sbagliato Lores, il telefono per chiamare. Lores, scusi un attimo, è meglio che lei chiami il 118, si faccia venire un attimo a prendere, si calmi, si inietti qualcosa. No, guardi, qualcosa. Io non ho assolutamente bisogno. Ho capito, ma perché aggredisce in questo modo Parenzo, scusi? Ma per quello lì è da mettere via, ma chiamatelo per quel deficiente lì, ma cosa lo tenete a fare un handicappato così alla radio? Ma di nuovo! Anche handicappato, brava. Vabbè, grazie Lores, grazie. Prego, buonasera. Grazie. Nome moleste moschito. Nome moleste moschito. Adesso scatterà un altro articolo di Michele Serra, Altro articolo di Michele no, Serra. No, ma questo è interessante perché questa signora qua, da questa voce che avrà avuto probabilmente 60 anni, dalla voce apparentemente calma e lucida, è questa la banalità del male. La banalità ne parliamo dopo perché abbiamo un ospite. Ti avrebbe detto la banalità del male. Va bene, adesso non la mettere. No, non la mettere. Cioè, una donna, sì, una donna qualunque, sì. Una donna qualunque, senza identità, con una vita grigia, proprio una vita normale. Adesso non passare dalla parte del torto. Un attimo solo. Una persona apparentemente normale. D'accordo. Che si può scatenare e può diventare una fiera. Calmati perché sennò si sente male. Abbiamo con noi il senatore Felice Casson, Partito Democratico, giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari al Senato. Buonasera, senatore. Buonasera a voi. Allora, innanzitutto le dico subito se condivide l'idea di Zanda, che oggi è diventato il tema del giorno, anche se Zanda è una cosa che aveva già detto, per la verità. Signor Zanda. Ma essendo capogruppo al Senato e soprattutto avendola ridetta quando il PD è al governo col PDL, lei può immaginare lo scalpore che abbia fatto. Allora, lei è d'accordo con Zanda che Berlusconi è ineleggibile, sì o no? Ma io conoscevo già ovviamente le dichiarazioni di Luigi Zanda perché già aveva anticipato il suo giudizio qualche tempo fa, sì. E oggi ha ribadito questo giudizio, devo dire che facendo parte della giunta delle immunità, sì, delle elezioni, non posso anticipare la mia valutazione e il mio giudizio. Tra l'altro questa giunta, cioè lei ci sta studiando su questa vicenda? Ci sta... No, ma io già, siccome faccio parte, sono presidente della giunta provvisoria che però non si può occupare di questi temi, sì. La giunta effettiva verrà incardinata martedì prossimo, sì. E quindi ci vedremo per la prima volta martedì prossimo. Ma lei già sta studiando la questione? È stata preannunciata, però materialmente finché non viene presentato il ricorso, l'istanza o la richiesta da parte di chi è interessato, sì, non si può sapere quali sono gli esatti termini della questione. Ma lei comunque si è fatto un'idea? La vicenda, sì, la vicenda in diritto è nota, e ovviamente ha acquisito la documentazione anche parlamentare, però questa mia valutazione non lo posso anticipare rispetto ai lavori della giunta. Quando ci saranno i lavori di giunta ne parleremo. Però mi sembra un modo per sfuggire alla questione, scusi, lo dico in maniera molto franca. È una vicenda stranota che riguarda, come sapete, il fatto che Berlusconi sia titolare di concessioni pubbliche nel campo radiotelevisivo in questo caso. Secondo Zanda e secondo una serie di giuristi, questa cosa, secondo la legge del 57, provocherebbe la sua ineleggibilità. Poi in realtà ci sono persone che non la pensano così, cioè, e poi la questione... ma infatti è nota la questione. Lei come nel dire? Senso, pensa... Nel senso che il Parlamento, in particolare la Camera dei Deputati, si è già pronunciata 3 volte dicendo che invece è eleggibile. Esatto. Ora proprio per questo la questione diventa delicata. Io credo che, essendo questa giunta un organo paragiurisdizionale, come si suol dire, è opportuno che un minimo di riservatezza dai membri di questa giunta venga mantenuta. Mi può dire però, allora, in 15 secondi, poi andiamo alla pubblicità e riprendiamo, se ha fatto bene Zanda a intervenire oppure è un intervento inutile? Perché questa è una valutazione politica. Ha fatto bene o no? Zanda è il capogruppo e se è ritenuto di intervenire ancora su questo tema vuol dire che ha dei motivi. Zanzare, dietro i vetri in montagna, in collina, in campagna e anche al mare. Zanzare, una parola d'uma di la te più vista in città e se no dormire. Zanzare, pomate, pomatine, cipro nella mano, l'ur che niente fa. Tra l'altro adesso abbiamo la dimostrazione molto plateale che la magistratura ha detto che lui deve poter dare 3 milioni di euro al mese alla propria consorte. Se lei fa il calcolo di quelle che possono essere state considerate le capacità economiche da parte di giudici milanesi in civile per dare questa cifra, può pensare che Berlusconi dare 1000 euro è come per me darne uno. No, facciamo 12 euro. Cominciare tutta un ricomincia. Secondo Longo, per Berlusconi 2500 euro sono 10-12 euro dei nostri, caro Parenzo. E beh, effettivamente anche qui è una grande operazione, se vuoi, di verità, cioè, perché noi ci stupiamo dei 2500 euro, qualcuno si scandalizza ovviamente, come prima l'onorevole Sberna, perché ovviamente ovviamente ci sono altri parametri, però è vero, cioè, per Berlusconi 2500 euro al mese date alle olgettine, date a una ragazza, sono nulla, zero rispetto alle somme di denaro che tratta, no? Cioè, per cui anche qui è pane al pane, vino al vino, così, cioè, potrà scandalizzare qualcuno, però è la realtà. Ma no, non è quello che scandalizza, uno può pagare, diciamo, le amiche che vuole o gli amici che vuole, fare regali a un barbone, come ricordava poco fa la Scelta Civica. Perché deve essere più nobile fare un regalo a un barbone di 2 euro piuttosto che regalare 2500 euro a una ragazza, a una bella ragazza? Qual è il giudizio? Chi lo giudica? Ma io infatti non entro ognuno con i suoi soldi fa quello che vuole, poi Berlusconi fa anche beneficenza. Ma io non do etichette su questo, io non do nessuna etichetta su questo, non do giudizi morali, ognuno darà il proprio giudizio su quella roba lì, non è quello il punto. Il punto è completamente un altro, è che questo signore qua era presidente del consiglio mentre faceva tutte queste robe. E vabbè, quella è un'altra questione, certo. Fosse stato un imprenditore televisivo qualunque, senza incarichi pubblici, poteva pagare anche un esercito di amazzoni, di amazzoni. Però io ti ripeto che altri senatori a vita sono stati nominati e non avevano una vita specchiata, ci sono dei precedenti, come sai, dei precedenti sui senatori a vita rispetto a quello che dice Zanda. Zanzare, una parola d'uma di la te più vista in città e se no dormire. Mi raccomando, vi vedo un po' sottotono. No, ma è un'impressione. Vi siete diventati buoni, ma sì, l'atmosfera nuova, se il Papa Francesco siete diventati tutti buoni. Beh, no, poco da lungo, non siamo diventati buoni, non si preoccupi. Siamo invece con il senatore Felice Casson, Partito Democratico. che non ci vuole dire come la pensa sulla vicenda Berlusconi ineleggibilità. Io lo capisco, senatore Casson, per carità, ma lei si è già fa si è già fa noi ce, però ce lo può dire, noi ci ascoltano in poche persone, senatore Casson, siamo tra intimi, siamo tra amici. È sì. come essere senatore Casson in una stanza chiusa dove ci ascoltano solamente, siamo in tre, io, lei e Parenzo. Lei lo dica, sì, è vero che fuori ci sono 2 milioni di persone in macchina, non dire queste cose. Basta avere un po' di pazienza, poi si sa cosa pensano tutti i senatori della giunta. Ma secondo lei è una questione che va posta, cioè una questione che va posta nel prossimo Parlamento, oppure non è il caso? No, ma non è che uno possa dire la poniamo come giunta, no. Se ci sarà il ricorso di una persona legittimata a porre la questione verrà trattata. Bisogna trattarla. Non è sempre stata trattata. Ma secondo lei il PD? La questione è stata posta. D'accordo, ma secondo lei il PD la deve affrontare, la deve porre la questione oppure no? Perché questo è importante. Non può essere posta da un partito. Vabbè, da un singolo deputato, quello no, che è. Ma la giunta funziona nel senso che quando c'è il ricorso, ad esempio del primo dei non eletti, di chi ha perso il posto, di chi non è stato eletto nella circoscrizione dove è stato eletto Berlusconi, potrebbe avere la titolarità di presentare un'istanza, una richiesta. Sì, però non sfugga la questione, Casson, la questione è politica. Questo... Cioè, secondo lei il PD deve porre la questione dell'ineleggibilità di Berlusconi o no, dato che è il vostro alleato? Perché altrimenti non è una questione politica. Beh, come no? È una questione giuridica, no, di rispetto della legge. Ma se mi fa finire, aggiungo. Questa valutazione e decisione sul punto di vista giuridico ha indubbiamente dei riflessi politici fortissimi, ma questo è indubitabile. Questo è chiaro. Certo, e poi ogni membro della giunta deciderà dopo aver studiato, letto le carte. Ma questo è lapalissiano, però io capisco la sua prudenza. Ma io farò così. D'accordo. Leggerò e sto leggendo le carte, deciderò con la mia testa. D'accordo, quello che dice il PD o che non dice il PD su questo tema non personalmente non mi riguarda. Ma questo è interessante già. Un'altra cosa però, ci sono due aspetti. Quello che dice lei è d'accordo. C'è un altro, è vostro alleato, è opportuno che il PD si pronunci su questa cosa ufficialmente oppure deve lasciare, se la questione verrà posta, libertà di coscienza? Uso una parola che si usa magari per altri argomenti. Io credo che alla giunta non deve essere imposto nessun vincolo d'ordine politico. Oh, ecco. La giunta è un organismo che fa la sua istruttoria, approfondisce, studia, sente i motivi della difesa della persona che viene chiamata in causa, poi fa la propria valutazione. Ma lei non si sente l'imbarazzo per essere lei è alleato di Berlusconi, allo stesso tempo ineleggibile, ma è una follia. Ma io ho anche detto che quando ho votato la fiducia mi sono turato il naso, se per quello. Sì, quello lo sapevo, quindi, però. Ecco, appunto, ma quindi la giunta, volevo ricordare che è come un organismo istruttorio, fa la propria istruttoria, poi la decisione spetta all'aula del Senato. Però, d'accordo, però io, Parenzo, che vuoi dire? No, scusi, voglio capire da Casson, in questo caso dall'uomo di legge Casson, peseranno di più nella valutazione i voti dei cittadini oppure la questione di diritto? Perché sulla questione di diritto è chiaro che tecnicamente può avere ragione Zanda, da un punto di vista puramente dell'interpretazione della norma. Nel passato non è stato così, più volte è successo, non è stato così. Ad oggi pesano di più il voto dei cittadini o la questione di diritto? Ma è successo almeno 3 volte... che la Camera dei Deputati ha detto che Berlusconi è eleggibile quando è stata posta la questione. Basta, e in quel caso la valutazione è stata fatta, è stato anche dichiarato sotto un punto di vista essenzialmente politico. Se la valutazione verrà portata a livello giuridico un conto, se la valutazione politica ovviamente può essere un altro. Però Casson, la questione è molto semplice, voi siete alleati di Berlusconi, lei sa che se il Partito Democratico o qualcuno del PD pone la questione si rompe tutto, cioè Berlusconi dichiarato ineleggibile pone fine all'alleanza con il PDL, se c'è un contributo anche del Partito Democratico, questo mi sembra evidente. Se io direi, come dicevo prima, la valutazione giuridica di un certo tipo avrà comunque effetti politici pesanti. D'accordo, voglio dire, questo mi sembra dirimente. Senta, c'è un'altra questione che riguarda invece Berlusconi, se è degno di diventare senatore a vita, posta sempre da Zanda questa mattina. Ma guardi, rientra delle prerogative del Presidente della Repubblica. Però secondo lei ha una condotta di vita degna? Di... Guardi, io, allora, la mia idea è che i senatori a vita non ci dovrebbero essere. E questo siamo d'accordo. Quindi sono proprio in radice contrario a questo anch'io. Perché così. E a questo punto risolvo la questione. E poi se il Presidente della Repubblica vorrà nominarlo... Ma non è stato inopportuno questa uscita di Zan? Adesso è il suo capogruppo, lo capisco che lei non possa esprimersi. Devo dire che sono rimasto sorpreso. Non era il caso. Non era il caso. Mi hanno detto che ha fatto questa dichiarazione, ho detto davvero. Ma perché non era il caso, secondo lei, di attizzare gli animi? Ma no, perché in genere Zanda non fa dichiarazioni di questo tipo, avrà avuto un suo motivo. Vabbè, senta un'altra cosa, ma se uno spara ad una persona come Cabobo, ha sentito che dice il deputato Longo, no? L'avvocato di Berlusconi, che avrebbe sparato perché lui ha il porto d'armi, da magistrato, che succede se uno ha il porto d'armi? Ma si trova per caso in una situazione del genere e spara? Se io vedo una persona, ma al di là di Cabobo, chiunque sia, che viene contro di me con un piccone per darmelo in testa e una pistola, sono legittimato a spararli per legittima difesa. Dunque non gli succede nulla a questa persona, anche se viene ammazzato. Non succede nulla, comincia il processo e poi verrà prosciolto, archiviato per legittima difesa. Dunque, in un certo senso, se lui si trova, come ha detto, con la pistola lì sul luogo del delitto e vede una persona che ammazza, prende a picconate delle altre persone, è legittimato a sparare. Può intervenire per legittima difesa proprio altrui. Dunque non ha detto una follia, diciamo, no? Da questo punto di vista. In diritto e tutto sta nella ricostruzione del fatto. Se il fatto è questo, se uno sta, diciamo, picconando con piccone materiale altre persone o viene contro di me con piccone, io una pistola e sparo, è il classico caso di legittima. Lei lo farebbe? Se la sentirebbe lei, Casson? Di avere un'arma e usarla? Io a suo tempo avevo l'arma e anche mi addestravo. Poi davvero? È finito. I magistrati che facevano terrorismo vivevano 24 ore su 24 sotto pressione di tutti i tipi. Poi non ha più adesso il porto d'armi, non ce l'ha più? No, il porto d'armi non c'entra, averlo o non averlo, usarlo o non usarla, portarsela dietro, no, io certamente non ce l'ho più. Ah, non ce l'ha più. Aveva il porto d'armi o semplicemente... Finalmente mi sono tranquillizzato, i giudici istruttori erano autorizzati a avere l'arma. A prescindere dal porto d'armi? I giudici istruttori penali, pubblici ministeri e pretori penali. Sì. È una vecchia legge, credo risalga addirittura al 1940, quegli anni, il testo unico sulla pubblica sicurezza. Senta, un'ultima cosa, ma lei ha detto una cosa, ha ricordato però che una dinamica come quella evocata da Longo, comunque un procedimento penale si apre. Beh, quello è chiaro, quello sempre. Ma quello sempre, che è scontato. Certo. Parenzo, se non fai domande, come è? Un po' di giorni che fai domande, sei un po' confuso. Vabbè, perché la tutela... L'ho capito benissimo, un'ultima cosa è questa qua. La gestione dell'ordine pubblico è affidata alle forze dell'ordine. Ma no, ma che cosa strana hai detto, che cosa originale, la gestione... Ma è giusto ricordarlo invece, perché in un paese come questo... No, ma adesso mi hai fatto confondere, dovevo chiedere una cosa, che è l'ultima, che... Lei ha sentito la requisitoria della Boccassini? No, spezzoni al telegiornale. È infelice quell'uscita sulla Furbizia orientale? Ma con tutto quello che ha detto ci fermiamo su questa frase qua. Lo sa, noi siamo anche siano anche, molte frasi più pesanti, se vogliamo, e significative. Lei non starebbe troppo a soffermarsi su questa cosa qua? Ma vabbè, ma poi quando parliamo... degli arabi oppure dei cinesi che hanno delle particolarità culturali, io non mi soffermerei. No, perché anche secondo lei gli orientali sono furbi, come ha detto lei, no? Scusi Casson. Ma sono furbi anche i napoletani, anche i veneziani, non mi pare una cosa offensiva. Se io dico napoletano che è bravo e furbo, cerca così, lo sappiamo tutti. O i veneziani negli affari, storicamente, non è mica un'offesa. Uno si può anche sentire magari toccato nel vivo, ma insomma non mi pare. Se uno dice i napoletani sono scaltri e furbi, guardi che a Napoli si incazzano. Ma non mi pare una grande cosa. Allora, è scontato che se il Partito Democratico dovesse votare l'ineleggibilità di Berlusconi, cari ascoltatori, scusate, camionisti, tassisti, gente comune, persone che non sono addetti ai lavori, scusate se utilizziamo ogni tanto queste parole del politichese, l'ineleggibilità, cioè Berlusconi non è degno di stare in Parlamento, non degno, è ineleggibile, perché ha le televisioni in sostanza, questa è la questione. Dice per esempio Matteoli del PDL, dice Matteoli che andiamo tutti a casa. Sempre facile. Si comporterà di conseguenza che non voterà. Che lo devo tradurre. Che non voterà l'ineleggibilità? Credo che lei abbia il vocabolario. Significa che non voterà l'ineleggibilità? Parrebbe, altrimenti dovrebbe dire andiamo a casa, no? Fare... Scappo sotto al letto, non parlare, no? Allora, io ribadisco una cosa, perché già mi arrivano mail, tweet, cose del genere. Chi ha il diritto di giudicare? Chi ha il diritto di giudicare se è più degno, se è più nobile regalare 2500 euro a un'olgettina oppure 2 euro a un barbone della stazione Termini? Volete mettervi sul palco a giudicare? Lucio da Verona, buonasera. Sì, buonasera. Non parlo di Berlusconi perché è una cosa vergognosa e mi meraviglio che vi preoccupate di queste robe qua che mi succede in tutto il mondo, sarebbe già a casa preso a calci del culo da anni e voi siete ancora lì che discutete se è ineleggibile, è una cosa vergognosa. Non voglio parlare di questo perché mi fa schifo, mi fate schifo voi come giornalisti che siete incapaci di avere un senso critico su sta roba qua. In un altro paese sarebbe impensabile. E ma stia tranquillo, stia calmo. Ma fate, dovreste vergognarvi. Ma che cosa le è successo a casa oggi? Due giornalisti del cazzo, perché in un altro paese la stampa griderebbe alla vergogna. Ma cosa le è successo? Che discutete di stronzate, cazzo. Cosa le è successo a casa oggi? Se ne voglio parlare invece di un'altra cosa. No, aspetti, stia calmo. Cosa le è successo oggi a casa che è così nervoso? No, guardi. Cosa è successo? Ha avuto un problema al lavoro? Mi giro le palle quando sento due giornalisti come voi del cazzo. Sì, del perché, cazzo, vede, sì. Vede, quando prima diceva che si meravigliava per i 2500 euro di cui il rappresentante della lista civica vive, no? Sì. Si meravigliava di questo, vede? Io ho fatto 40 anni di lavoro e non ho mai fatto un'ora di straordinario perché volevo che gli altri lavorassero. E voi invece, pidocchiosi, voi due giornalisti, sì, fate 5 mestieri per prendere 15.000 euro al mese e magari avete anche la moglie che lavora. E qual è il problema? Il culo ai disoccupati. Qual è il culo ai disoccupati? Sì, che vuole fare un giro con la mia macchina? Vuole fare un giro con la mia Porsche, forse? Vuole fare un giretto con la mia vettura? Lei vuole fare un giretto? Chiosi egoisti! Che non pensate, e quando dice ma i poveri esisteranno sempre, vuole fare forse esisteranno sempre i poveri con gente come voi che fanno 4 mestieri e lasciano a casa i giovani. Vuole fare un giretto con la mia vettura, forse vuole fare un giretto. 15.000 euro al mese, vada, la moglie che lavora anche, le faccio fare un giretto, dire in televisione i poveri esisteranno sempre, certo, è chiaro, è quello che dice, è normale, perché secondo lei non esisteranno? Perché non esisteranno sempre i poveri? Se voi, io non ho fatto un'ora di straordinario in 40 anni di lavoro, capito? Ma cosa vuole da me? Cruciani, avevo Lucio, torno tra un attimo. Torno tra un attimo. Un'ora di straordinario. Lucio? Sì, sono qua. Allora? Sono qua. Adesso se lei ritiene, no, che guadagnare 15.000 euro al mese e dire che i poveri staranno sempre, certo, lo ribadisco, facendo 4 mestieri, e beh, che vuol dire? Ma secondo lei io ero più cogliere a non fare un'ora di straordinario? Ma io non ho capito, ma perché lei non ha fatto un'ora di straordinario? Mi spieghi. Perché volevo che gli altri lavorassero, perché sennò se io facevo, come tanti facevano, ora di straordinario abuso, non si assumeva nessuno, capito? Sì, però... Allora, io volevo che invece Lucio, gli altri lavorassero. Ho capito. Ma è fatto per principio. Ho capito, ma perché uno deve fare quello che fa lei? Scusi, perché sì, uno... perché lei è un pidocchioso che vuole prendere 15.000 euro al mese. Sono pidocchioso, benissimo. Di vivere con 5.000 euro. Lorenzo, anche tu sei... Anche tu, ma non funziona così. Ma non funziona come lei crede. Non è che se io rinuncio. Per forza non funziona così. Voi siete liberisti del cazzo che pensate che la vita sia una giungla dove più furbo deve guadagnare il triplo di un altro e l'altro a casa a 4. Ma non funziona così come dice lei. Ma non funziona. I più furbi perché voi siete più furbi, noi napoletani siete voi più furbi, i laureati del cazzo che hanno trovato una miniera d'oro a dire cazzate in televisione per guadagnare 15.000 euro al mese, no, e gli altri che vanno a farsi a fracassare gli idioti che non trovano lavoro e che vivono pure con 800 euro al mese mantengono la famiglia, e voi siete più furbi, no, voi fate quattro mestieri, scrivete sui giornali, radio, televisioni, fate quattro mestieri e i giovani laureati a casa fare un cazzo, no? E voi, a parte che tra parentesi sono laureato anch'io, questa è la vostra vita, questo è il vostro modo di pensare, no? Liberisti del cazzo, no? Qual è il suo problema? Qualche idea buona ce l'ha qualche volta. Qual è il suo problema? È un fiducioso egoista. Ma che cosa dovrei fare? Perché cazzo ne fa di 15.000 euro? Lei che cazzo ne fa di 15.000 euro? Vuole fare un giretto con la mia macchina? Che cazzo ne fa di 15.000 euro? Vuole fare un giretto con la mia macchina? C'ha la moglie che lavora anche. C'ha anche la moglie che lavora, che porta via un posto di lavoro. Sì, e con quello faccio 25.000. Con quello da 15 passo a 25.000. Fa 25.000, sì. Manda a lavorare la moglie, porta via un posto un'altra ragazza che non ha lavoro. 25.000, certo, no? Sì. Non funziona come dice lei con la sostituzione. Non funziona come dice lei, solo i furbi devono vivere nella ricchezza, no? Gli altri nella merda. Questa è la vostra logica, no? Questa è la vostra logica del cazzo, no? Comunque pidocchioso. Volete continuamente comprarvi case, che cazzo ne fate di 15.000 euro? Me lo spiega lei, Cruciani, che cosa fate con 15.000 euro? Guardi, ogni tanto. Che cosa fate? Mi dica che io vivo con 1.700 euro. Me lo dite che cazzo fate? A parte fa, che lei? Non è vero che io guadagno 15.000 euro, comunque. Insomma. No, aspetta che prendo 200.000 euro l'anno, sono 15.000 euro. Ma Lordi, cazzo. Amico mio, bisogna pagare sì, le tasse. Lordi, vabbè, saranno 10.000 allora. Ma lei, qual è il suo problema? Io vivo con 1.700 euro. Ho capito, ma che vuole fare? Funziona così nel mondo normale? Certo. Poi dice che i poveri esisteranno sempre. È normale, esisteranno sempre i poveri, che guadagnano 1.500, quelli che guadagnano 2.000, quelli che guadagnano 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, è così, è il capitalismo, è il mercato, se ne faccia una ragione, è così. La ricchezza bisogna spartirla, amica, siamo a... Non è il comunismo reale. Non è che sia più furbo del gruppo, perché dice quattro cazzate a Radio 24, no, non è più furbo della qua, perché un chirurgo prende un quarto di quello che prende lei. E pazienza, che devo fare io? Sicuramente, a parte che bisogna vedere, insomma, ognuno nel suo settore, non si possono fare i paragoni. Voi vendete fumo, siete i maggiordomi di un potere. Le dà fastidio che prendiamo un maiale di Arcore che condannato per evasione fiscale e siete lì che gli chiedete frode fiscale. Ma non è illegibile, ma l'hanno votato, ma che cazzo ha votato? Io l'altro paese va a casa, calci nel culo, e voi siete lì che li difendete perché avete dei padroni, adesso non fate più gli scherzi perché il vostro padrone vi ha detto basta. Ma come abbiamo fatto 15 giorni? Scusi Lucio, io però voglio chiarire una cosa, ma lei stasera che cosa? Cioè, ha preso una dose di qualcosa, ha bevuto? Io vi ascolto tutte le sere. Ho capito. Tutte le sere vi faccio vedere la pelle d'oca, perché siete degli emeriti farabutti. Degli emeriti farabutti siete, perché difendete il potere. C'hai il trone. No, e siete lì a discutere se quel maiale là di Arcore no, è andato a letto, non è andato a letto, ha rubato, non è rubato. Sì. È un paese per un decimo di quel trone lì. Sarebbe già andato a casa e buttato fuori dalla politica. E siete qua e ha voluto fare un governo a quel PD proprio per poi ricattare, l'ha voluto a tutti i costi questo governo, per poi ricattare il PD sull'ineleggibilità, capito? Quanto è il centrone questo signore qua? È ora di finirla con questi centroni, voi siete il cane da guardia dei centroni e dovete mandarli a casa, non stare lì a fare le mostrine, ineleggibile. Ma siete dei cialtroni, maggiordomi, servi del potere economico. Siete la peggiore specie che esista. Si è sfogato bene, ma sua moglie. Dov'è? Sua moglie dov'è? No, mi sono separato. Ah, ecco. Sì, mi sono separato. Tanto? Sì, mi sono separato con tre figli. E io mi ho tenuto per 30 anni con 1.800 euro al mese. E adesso ne prendo 1.700 di pensione, capito? E mi bastano! Vabbè, e io non voglio prendermi di più. Ho capito, pazienza. Voglio che la ricchezza sia. Sì, ma non funziona come dice lei, cioè non è che non funziona. No, certo, voi volete la giungla dove i più furbi la mettono in culo agli altri. Questo siete voi. I più furbi, non i più intelligenti, perché non siete più intelligenti, siete i più furbi che avete provato la miniera d'oro. Ma ce l'ha una fidanzata? Lei? Sì. Ce l'ha una fidanzata? Sì, c'ha una compagna. Sì. C'ha una compagna. Che dice quando lei si incazza così? Meno male. È lì che ascolta preoccupata. Te credo che è preoccupata. L'abbraccio fortissimo. È preoccupata. Non è proprio poi anche lei. Ma ci fa l'amore? Sì. Questo è fondamentale, mi raccomando. L'abbraccio, Lucio. L'abbraccio. Una volta le faccio fare un giretto. Buonanotte. Le faccio fare un giretto qui a Milano con me. Prenda atto che ormai è tutto finito. Non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, non mi molesta il moschito, retourne chez toi. Je fais la sieste moustique, arrête un peu ta musique. Lei contro Cabobo l'avrebbe usata la pistola? Immediatamente, dopo che avessi capito cosa stava facendo. Gli avrei sparato le gambe, sì, certo, perché no? Perché basta sparargli le gambe e perché finisca di dare picconate in testa alla gente. E allora se non si ferma, gli spariamo un'altra volta le gambe. Se proprio non si ferma, gli spariamo addosso. Questa è la regola. Perché lei non l'avrebbe fatto, si sarebbe andato a nascondere da qualche parte, non sarebbe intervenuto. Guardi che c'è un obbligo di intervenire a difesa delle persone. Non mi molesta il moschito. Non mi molesta il moschito. Bene, mi segnalano, caro David, che c'è un tizio che pare lavori all'Espresso. Pare, perché non lo conosco. Vabbè, pare, un tizio, sembra. È un collega dell'Espresso, c'è Titti Bande. Certo. No, ma non lo conosco io, non so chi sia. Emiliano. Ha scritto anche un bel libro, peraltro. Sì, non lo so, non lo conosco, non mi sovviene adesso. Insomma, mi sembra, dicono lavori all'Espresso, si chiama Emiliano Fittipaldi. Un giornalista? Sembra. No, giornalista. Me lo confermi tu? Sì, bene, un giornalista. Io lo conosco, ha scritto un libro bello. Ah, ok, benissimo. No, mi confermi che è un giornalista che lavora all'Espresso. No, per sentito dire, io non lo so, non lo conosco esattamente, non so quello che fa. Che scrive, adesso poi sono andato a recuperare la cosa, scrive: ogni volta che sento Parenzo e Cruciani alla Zanzara mi viene il ribrezzo. Non tanto per una trasmissione trash fatta di urla e rutti liberi che non vuole essere altro rispetto a quella che è, ma perché i due vengono da molti considerati giornalisti con i controcazzi. A parte che questa è una sua valutazione, insomma. Comunque, lasciamo perdere. Quest'anno gli hanno dato pure il premio più prestigioso della categoria. Il premiolino. Mentre festival importanti fanno a gara per invitarli. Le assicuro che non mi risulta che festival importanti fanno a gara per invitarci. Comunque, insomma, evidentemente lei ha più informazioni rispetto a lei, signor Fittipaldi, ha più informazioni rispetto al sottoscritto. Di sicuro ho sbagliato tutto. Adesso io non so se lei ha sbagliato tutto. Perché sono affari suoi, se lei pensa di aver sbagliato tutto perché non ha vinto un premio o perché non viene invitato, se ha un problema di questo tipo sono affari suoi, cioè non mi interessa francamente, cioè, non discutere di questo. Ecco, però vorrei soffermarmi, poi ognuno è libero di dare il giudizio che vuole sul trash, sul tipo di trasmissione, per carità, però la parola su cui vorrei soffermarmi è ribrezzo. Ecco, eccola. La parola ribrezzo, esatto, quello ha colpito anche me, devo la dire. Parola ribrezzo, perché poi uno può dire quello che vuole, figuriamoci, noi siamo abituati qui, però la parola ribrezzo, la qualifica, ecco, la parola ribrezzo la qualifica in un certo modo, cioè, non voglio andare oltre perché sennò poi mi arrabbio e direi altro, non è il caso, perché appunto io non la conosco, non so chi sia, non lo conosco, vabbè, ma trattasi di cose da poveracci, cioè non è che sono cose normali, sono cose di un poveraccio che a un certo punto dice: vabbè, scrivo che quei due mi fanno ribrezzo, cioè, io non ti conosco, per cui la parola ribrezzo conservala per altre cose. Grazie. Siamo qui, Paolo Liguori, ciao Paolo, come stai? Carissimi amici pidocchiosi, questo termine è esattissimo e vorrei iscrivermi anch'io nel novero dei pidocchiosi. Beh, io ve l'ho detto tante volte, ve lo ripeto stasera per l'ultima volta. Voi siete a rischio, siete due persone a rischio. Perché? In che senso perché a rischio? Siete dei parafulmini eccezionali per l'invidia sociale. L'invidia sociale nei vostri confronti si manifesta in questo modo: la gente sente che vi divertite come pazzi a fare quello che fate in radio e pensa, questi due disgraziati pidocchiosi non solo si divertono, ma li pagano pure per divertirsi. Capito, lo so, lo capisco. E questo succede con gli ascoltatori. Poi ci sono i colleghi, e la frase che a voi ha fatto paura, la parola ribrezzo, a me ha colpito invece la parola ho sbagliato tutto, perché stava parlando di sé e diceva, ma guarda un po', io faccio il giornalista e l'Espresso da tanti anni, non mi conosce nessuno, e questi due pidocchiosi li conosco tutti, gli telefono tutti e guadagnano pure. Sì, invece io sono lì a fare giornalista. Siete a rischio, nell'Italia di oggi siete a rischio. E che dobbiamo fare? Che dobbiamo fare? Dovete far finta che vi divertite meno. Ogni Parenzo deve riassumere quel suo tono penitenziale che ogni tanto fa, fare delle grandi prediche ai poveri, piangere un po', lamentarsi un po', perché se voi fate vedere che vi divertite, che insomma i casi della vita che voi esponete con divertimento vanno fatti con una certa finta ipocrita sofferenza. Oppure questo dobbiamo anche fare meno scoop, forse. Ma no, ma non è per lo scoop che sono invidiosi perché vi divertite, un po' perché ridete, per quelli che vi telefonano e dicono ah ci fate ridere, fateci ridere ancora. Sì, invece loro stanno lì tristi nelle... Tristi, ipocritissimi. Lo so, però io non ci riesco. Mi piace, questa sera abbiamo veramente, noi ci pensiamo quasi tutti i giorni che c'è della gente povera e forse non potremmo neppure fare questa trasmissione a pensarci, sosteniamo solo per questo momentino e vi diciamo una cosa un po' fuori dalle righe. Senti, ma Zanda che dice che Berlusconi per la vita privata che fa? Non può fare il senatore a vita, che dici tu? Mi sono saliti i capelli dritti fino al quinto ma ce l'hai già piano. Dritti i capelli? Ce l'hai già sono dritti. Rimasto sorpreso perché ho conosciuto Zanda, che è una persona, l'ho conosciuta, una persona civilissima, giovane, avvocato, figlio del prefetto Zandaloi, capo della polizia dal 73-75, qua si parla qui si parla di noblesse democristiana. Il giovane Zandaloi a 32-33 anni era portavoce del ministro dell'interno Cossiga. Di Cossiga? Certo, e prima per due volte portavoce di due governi Cossiga successivi. Stiamo parlando degli anni 76. Cioè stiamo parlando dell'ordine, pubblico. L'ordine costituito Cossiga col K. Parlando degli anni di Giorgiana Masi, delitto rimasto finora sempre senza responsabili. E dunque? Quindi vi ricordate Cossiga col K? Zanda, la crema, la nobiltà, la prima fila democristiana la conosce forza perché c'è vissuto, è stato educato. Allora, perché mi parla di Berlusconi? Perché la memoria in questo paese si perde. Questa legislatura è stata aperta nella seduta del Senato dal senatore a vita, persona stimabilissima e distintissima, Emilio Colombo. Emilio Colombo, guardate, non è uno qualsiasi, è stato molte volte al governo, presidente del Consiglio, ministro, è stato uno di quelli che ha siglato il Trattato di Roma sull'Europa, fondatore dell'Europa, però ha avuto anche un caso abbastanza imbarazzante che riguarda la cocaina. E come no, ha ammesso di aver fatto uso di cocaina. Alla sua scorta, che furono arrestati, e lui disse no, era per me, la portavano a me, mi serve a me. Allora, no, soprattutto disse una volta che aveva usato per più di un anno e mezzo la cocaina, lui dice per scopo terapeutico. Però, voi vi ricordate che in questi anni, perché l'ipocrisia è proprio in questo paese domina, allora in questi anni esistono giornali, giornalisti, pure gente come voi che parla prima di tutto, quindi le feste di Berlusconi, il vero e fa. Negli anni 70, a parte due o tre giornali di sinistra, tra l'altro era consigliere di amministrazione anche del gruppo Espresso Zanda, e l'Espresso era uno di questi giornali cosiddetti scandalistici, perché menavano scandalo, fecero numerosi articoli su il senatore, a quell'epoca l'onorevole Colombo a Capri con i ragazzi giovani, non ragazze extracomunitarie, ma ragazzini italiani. Ma minorenni? Minorenni? No, sappiamo, adesso non sto a fare io accuse a nessuno. No, però scusa, tu vuoi dire una cosa, che senatori a vita sono stati fatti dei senatori a vita che hanno scandali di carattere sessuale, di carattere addirittura che riguarda la droga, conclamati, addirittura pubblicati da giornali dell'epoca. E dunque Zanda non può fare la morale a Berlusconi, questa è la sostanza. Ma perché fai la morale? Aspetta che non ti sento, ho il traffico, non ti sento, vai in una zona dove si sente meglio, perché è importante questa cosa qua. Emilio Colombo, tra l'altro, una volta disse in un'intervista al Corriere della Sera, quando ha compiuto 90 anni, che utilizzava la cocaina per ragioni terapeutiche dovute allo stress da lavoro. No, attenzione, lo stress da lavoro è interessante. Nella vita ogni persona tenta di inviare dei messaggi positivi, tra quelli negativi da parte mia c'è questo episodio per il quale oggi, in piena onestà, mi sento addirittura in dovere di chiedere scusa. La zanza, la zanza, la zanza, la zanzara stronza. No, a questo punto non zanzara stronza, le zanzare. Com'è che ha detto Fittipaldi, Parenzo? Com'è che ha detto? Fanno ribrezzo, che schifo, facciamo ribrezzo. Effettivamente le zanzare fanno ribrezzo ogni tanto, però noi siamo dei così, cioè, dei personaggi che addirittura fare ribrezzo, una fitta. Vabbè, allora, però Paolo, siamo in collegamento con Paolo Liguori, sì. TGcom, eccetera, però Paolo, beh, dilla, non c'è quella di male, però me la voglio chiudere così. No, diciamola esplicita la cosa. Zanda, sì, non, diciamo, si può permettere, sì, non si può permettere, bravo, di fare morale su Berlusconi, perché nel passato hanno fatto senatore a vita Emilio Colombo, che sì, ma non volevo fare il caso Colombo contrapposto a Berlusconi. Volevo dire, c'è stato Emilio Colombo, ci sono stati nella Prima Repubblica tanti altri personaggi che Zanda conosceva. Allora io casomai voglio fare un altro caso. No, senatore a vita, Zanda, però. Zanda non può permettersi di fare la morale a Berlusconi, perché io, che ero già grandicello, mi ricordo come è entrato la prima volta nella legislatura nel 2003. Zanda è entrato nel 2003 in Parlamento, ve lo racconto, ma lo trovate anche su Wikipedia. 2003, com'è possibile 2003? Nel 2003 penso che sia entrato lui. Vabbè, non ci sono state elezioni, comunque vabbè, allora? No, non ci furono elezioni. Attento, fammi finire. Sì. Allora Zanda entra in Parlamento la prima volta perché un deputato della sinistra, in quel caso della Margherita, lascia il seggio. E allora la sinistra candida Zanda, Cossiga in quel momento aveva un ruolo politico molto importante, chiede a Forza Italia e a Berlusconi di non candidare nessuno nel collegio dei Castelli. Zanda entra in Parlamento a metà legislatura in una elezione suppletiva con l'appoggio e la raccomandazione di Cossiga senza avversario. Cioè, dici, si fa un'elezione, si è fatto raccomandare da Cossiga. No, attenzione, ufficialmente Forza Italia candida un senatore, ma purtroppo dopo l'intervento e la pressione di Cossiga non riesce a raccogliere le firme. Pensate, non riesce a raccogliere e dunque? Le firme. E dunque, siccome per quella legge bisognava rifare l'elezione al collegio, Zanda si candida senza avversari. Senza avversari, e come fai a sapere che chiese a Cossiga di spingere su Berlusconi? Perché faccio il giornalista da tanti anni e so che Cossiga intervenne e intercesse, e in quel momento Cossiga contava molto per la formazione dei gruppi parlamentari dentro Forza Italia, ai margini di Forza Italia e nella Margherita. Era un caso politico. Vabbè. Questo ci metto la mia questione. No. Il caso è talmente singolare che tutti se lo ricordano. Allora è stato un antesignano del listino. Del listino Cossiga. Va bene. Antesignano, la legge in quel caso era diversa, si votava per collegio plurinominale. Zanda fu eletto a metà legislatura per la rinuncia, o credo per il decesso, di questo suo precedente collega, senza avversari. Grazie, allora, Paolo. A chi vuoi fare la morale? Vuoi fare la morale? Arrivederci, Pidocchiosi. Pidocchiosi me lo prendo, perché l'ascoltatore è sempre un re qui, il Pidocchiosi di cui parlava prima Paolo Liguori. Però che fanno ribrezzo adesso, se ci ripenso, però non voglio. Piercarlo da Torino, buonasera Piercarlo. Buonasera. Ma che cazzo vuole questo qua? Ma che cazzo vuole? Ma non ci rompesse i coglioni, Piercarlo da Torino, non ci rompesse i coglioni, facesse il suo lavoro senza romperci le balle. No, Pier poi Carlo. Capisci quello che dispiace, che dice cercate. Ma lasciamo perdere, non è importante. Ma no, non ma come se fossimo degli appestati della gente da non importante, gente che fa la pipì per terra. Non è importante, lascia perdere. Siamo persone ben educate che sono state a tavola. Ma non è importante specificare chi se ne frega, ma chi è? Ma chi lo conosce? Pier Carlo da Torino. No, io lo conosco, è un bravo giornalista anche, lo conosco bene. Pier Carlo da Torino, buonasera. No, ma chi lo conosce? Nel senso io non lo conosco, cioè non mi interessa. Ha scritto anche un bel libro. Ma non mi interessa. Gli vende un po' di copie in più. Ecco, appunto, facciamo pubblicità così magari. È quello che vuole forse, Pier Carlo da Torino. Pronto? Sì, dica. Pronto, buonasera a lei e al signor Parenzo. La domanda che mi sono posto da qualche tempo a questa parte è, dopo aver letto che il signor Berlusconi era talmente generoso nell'energire quei mensili da 2500 euro, le oggettine, sì, e a rubi, sì, e tutto il resto, la domanda che io mi sono posto, e forse tanti altri anche, è: ma quelle signorine lì, le tasse su 30.000 euro all'anno le pagano? Bah, non lo so come sono, come sono organizzate da questo punto di vista. Ma no, ma credo che siano 2.500 così, 2.500 come regalia, non so, ma che ne no, so. Ha detto al mese, eh? Ma al mese saranno nette, saranno 2.500, sì, da quello che so sono 2.500 nette, dunque sicuramente Berlusconi verserà di più. Sono 30.000 all'anno, chissà quanti italiani sarebbero contenti di ricevere un'elargizione. Ma ognuno quella. Regala i soldi a chi vuole, grazie. No, Luca da Cuneo. Questo è un altro discorso. Luca da Cuneo, buonasera. Buonasera a tutti i teleascoltatori. Vada. Vado, io l'ho detto già al filtro quando mi hanno selezionato la telefonata, che io non sono qua per insultare nessuno. Voglio solamente dare così il mio piccolissimo contributo, in quanto anch'io, tra virgolette, mi ritengo un attimino un po' un dispensatore di buon umore, nel senso che organizzo spettacoli e sono un musicista, sì, che chiaramente sì. Lavoro a livelli molto molto tranquilli. Ma io penso solamente che quello che mi fa ribrezzo è sentire un po' tutta questa gente qua, che innanzitutto dicono che sono indignati verso di voi, premetto sarò passato per Lecchino ma non me ne frega nulla, cioè si indignano, voi offendete questo, però poi mi sembrano tutti dei masochisti perché sono attaccati alla radio. Bravo, bravo. Come l'ape sul miele, primo discorso. E seconda cosa, a sentire tutta questa gente che si lamenta, che è inutile ed è assolutamente inconfutabile, sì. La questione è che la situazione la conosciamo molto bene, io bazzicando in situazioni come Proloco, come comitati, allora? vedo che nonostante queste grandissime difficoltà la gente ha ancora voglia di dispensare un po' di allegria e un po' di buon umore. Ma che vuol dire, scusi Luca? Nel senso che se uno sente e accende la radio sente solo catastrofi, gente che ammazza e tutto, cominciamo un attimino a vedere il rovescio della medaglia, è duro, sicuramente è molto difficile. Luca, come dice Prodi, no? Come dice Romano Prodi. Allora io, lei capirà. No, dico, lei capirà sicuramente che per il mestiere che faccio io è logico, non mi schiero, e poi non sono assolutamente, sono l'ultima delle persone a parlare di politica e quant'altro, anche perché nel corso della vita ho visto che cambiano, sì, le bandiere, ma le usanze sono sempre. Va bene, l'abbraccio, grazie, finiamo col buonismo stasera, cosa eccezionale. A domani 18:30. Ciao. Sì. È il dottor Cruciani? Sì. Sono finalmente, sono Gian Battista De Montis. E chi sei? Devo coronare il sogno della mia vita, cioè? Quello di essere mandato a fare in culo da lei. No, zio. Pronto, dottor Cruciani, lei è un comunista. Ma vada a fare in culo. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Questa non è Radio 24, questa è Radio DJ, ciao belli.